Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Sventato attentato a Parigi, 5 pacchi esplosivi trovati in un grande magazzino. Arriva una rivendicazione da parte di un misterioso fronte rivoluzionario afghano. 2 anni di recessione per l'Italia, la ripresa solo nel 2010. Fosche le previsioni del centro studi Confindustria, che lancia anche l'allarme disoccupazione. Entro giugno si perderanno 600.000 posti di lavoro. Il governatore di Banca Italia Draghi chiede alla comunità internazionale nuove misure anticrisi. Duro colpo al Partito Democratico in Abruzzo, brusco calo nelle elezioni regionali che hanno visto la vittoria del candidato del Popolo della Libertà Chiodi, e nella notte in manette per tangenti finisce il sindaco di Pescara, coinvolto nell'inchiesta anche l'imprenditore Carlo Toto. L'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia delle leggi razziali, l'affondo di Gianfranco Fini, anche la Chiesa sapeva. Volevano ricostruire la storica cupola della mafia, ma sono finiti in manette. 99 gli arresti, un blitz importante contro la mafia, quello messo a segno nelle prime ore di oggi. Abbiamo impedito a Cosa Nostra di rialzarsi, dice il procuratore nazionale Grasso. La pioggia non risparmia a Roma e Lazio, a Ostia e Pomezia c'è chi ha trovato scampo sui tetti delle case. Tevere e Aniene sorvegliati speciali. Incidente questa mattina durante una esercitazione militare. Un soldato è morto durante un addestramento all'aeroporto militare di Rimini. E buongiorno da Anna Migliorati e da Alessio Maurizi, GR Extra Large, benvenuti. Queste dunque le notizie di oggi. Apriamo con la notizia però dell'ultima ora. 5 bombe, dicevamo, sono state trovate a Parigi. Fortunatamente attentato sventato, ma poteva davvero essere una strage. E allora andiamo subito nella capitale francese, dove c'è Igor Fiatti. Igor, ti chiediamo quali sono le ultimissime notizie che si sanno di questo attentato sventato. Sì, buongiorno da Parigi. Intanto confermo le 5 bombe di cui parlavate voi, che sono state disattivate dagli artificieri nel grande magazzino Printemps, un edificio che si trova nel 9° arrondissement, cuore dello shopping parigino, soprattutto in questo periodo prenatalizio. L'edificio ovviamente è stato evacuato e la polizia ha predisposto un cordone di sicurezza. Per il momento si ignora la natura esatta dell'esplosivo, ma stando alle indiscrezioni pare che si tratti di dinamite, priva di innesco però. Secondo il ministro degli interni, Michel Alliot-Marie, infatti, gli ordigni non sarebbero comunque esplosi. C'è da dire che intanto è mistero anche sulla rivendicazione. In mattinata nella redazione dell'agenzia di stampa France Press era arrivato un documento, una lettera firmata dal sconosciuto fronte rivoluzionario afghano, in cui si segnalava la presenza di molte bombe all'interno del grande magazzino Printemps. Ebbene, nella lettera questo fronte rivoluzionario, ripeto sconosciuto sinora, esige il ritiro delle truppe francesi dall'Afghanistan entro il febbraio del 2009. Per ora è tutto, linea Milano. Grazie ad Igor Fiatti da Parigi. Naturalmente ti ricontatteremo se ci saranno aggiornamenti sulla notizia dello sventato attentato a Parigi questa mattina, poco fa. E noi veniamo invece in Italia con la notizia politica che oggi è in primo piano. Per il Partito Democratico è stata quella che si dice davvero una giornata da cancellare. Non bastava il crollo alle elezioni regionali in Abruzzo, nella notte è arrivata anche la notizia dell'arresto del sindaco di Pescara, nonché segretario regionale del PD, Luciano D'Alfonso. Le accuse sono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione, poi truffa, falso e peculato. Accuse naturalmente, come ognuno di noi può intendere, gravi e che coinvolgono anche imprenditori. E la vicenda ruoterebbe, tra le altre cose, attorno ad una delibera che alla fine non è nemmeno stata approvata e che riguardava l'appalto per la gestione di un'area antistante la stazione ferroviaria. E a Pescara c'è Stefano Totoro, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Stefano, partiamo dall'inchiesta. Un terremoto improvviso si intuiva? Beh, in realtà l'inchiesta risale a marzo di quest'anno e la richiesta di arresto per il sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, era stata presentata dal GIP Luca De Ninis a metà del mese di novembre. Quindi in qualche modo era nell'aria questo arresto. Bisogna ricordare, andando a fondo appunto nell'inchiesta, che oltre all'ex sindaco ai domiciliari sono finiti il suo braccio destro, Guido Dezio, che era già stato arrestato a maggio di quest'anno, aveva scontato già 42 giorni di arresti domiciliari, e l'imprenditore professore Massimo De Cesaris. Le accuse le avete dette: associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione, truffa, falso e peculato. Sono 3 arresti e 35 gli indagati, la maggior parte dei quali conosciuti a livello locale. Sostanzialmente si tratta del gota dei calcestruzzi, ma non solo, perché spiccano anche i nomi di Carlo e Alfonso Toto, ovvero padre e figlio e rispettivamente presidente e amministratore unico della compagnia aerea Air One. L'inchiesta riguarda la gestione dei servizi cimiteriali e la riqualificazione di un'area dismessa della vecchia stazione centrale situata al centro di Pescara. La procura avrebbe accertato movimenti di denaro fra l'imprenditore De Cesaris e l'ex braccio destro del sindaco D'Alfonso, Guido Dezio, riflettori degli inquirenti puntati su appalti pubblici con un solo concorrente, soprattutto su viaggi, cene e macchine con autista. Sono benefici offerti, secondo l'accusa, in 3 anni all'ex sindaco di Pescara proprio da Carlo Toto, e questa prova anche del reato, secondo il PM, del reato di corruzione. Al momento un giro di denaro di circa 200.000 euro. Stefano, questo arresto naturalmente è arrivato subito dopo la chiusura delle urne, che hanno dato un responso disastroso per il Partito Democratico. Esattamente, l'arresto è avvenuto alle 23, quando erano ancora in corso le operazioni di scrutinio, operazioni che hanno visto poi vincere il candidato del Popolo delle Libertà Gianni Chiodi con il 48,8%. Ha perso Carlo Costantini con il 42% dei consensi. Bisogna rilevare che tra i partiti il PDL sostanzialmente ha tenuto ed si è attestato attorno al 40%, come le scorse elezioni politiche del 2008. Brusco calo del PD attorno al 20%, quindi un calo di 10 punti dovuto soprattutto, a detta di molti, all'eredità lasciata dalla giunta del Turco, decapitata dal terremoto giudiziario dello scorso luglio per presunte tangenti in ambito sanitario. Sale invece, raddoppia il consenso il partito di Antonio Di Pietro, seppur in una coalizione che ha visto perdere il candidato alla regione. Ma il dato sicuramente da tenere in considerazione è quello dell'astensionismo: ha votato soltanto un elettore su due. E anche a questo proposito sentiamo cosa ha detto il neo presidente Gianni Chiodi. Io penso di aver già cominciato. Questo risultato è chiara indicazione del fatto che qualcuno più di altri è riuscito a ispirare fiducia. La metà degli abruzzesi non ha votato e questa è l'unico cruccio di questa straordinaria campagna elettorale. Io credo che tra 5 anni ci saranno sicuramente molte persone che andranno a votare di più. Grazie allora al nostro Stefano Totoro. E politicamente c'è da dire che il risultato elettorale in Abruzzo apre il processo al PD, o meglio alla scelta del segretario Walter Veltroni di allearsi con Antonio Di Pietro. Titola il Riformista oggi, un'altra Walterlo, quindi con un gioco di parole, editoriale dal titolo "Così si suicida un partito", durissima anche Europa, perso l'Abruzzo, cade il PD e ora basta con Di Pietro. Cattivelle anche le vignette. E sono anche qui giochi di parole, c'è Crancic sul giornale che la vede così, c'è un Veltroni appeso ad una croce, inchiodato letteralmente da Di Pietro, e il titolo non poteva che essere Chiodi, naturalmente. E invece Vincino sul Corriere gioca sul Gran Sasso d'Abruzzo, e c'è un Veltroni che scappa inseguito appunto da un masso. Cosa dice in tutto questo Di Pietro? Così allora sentiamo le sue parole questa mattina. Il mio obiettivo e quello dell'Italia dei Valori è costruire un'alleanza programmatica ed eticamente sostenibile che sia alternativa al governo di Berlusconi. Non perderemo un minuto di tempo per le lotte intestine e per dar retta a chi vorrebbe che questa parte del paese non fosse rappresentata all'interno delle istituzioni. E l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro in Abruzzo ha raddoppiato i propri voti praticamente, però a farne le spese non è stato il centrodestra ma il Partito Democratico, che è sceso sotto il 20%. Come dicevamo, si fanno ora più forti le voci interne proprio al PD che spingono per una rottura con Di Pietro, questa alleanza scomoda per alcuni. Paolo Piacenza ha sentito il direttore di Europa, Stefano Menichini, Europa il quotidiano che era della Margherita, che oggi sul suo giornale ha invitato il PD a liberarsi di questo ircocervo. Io credo che molti voti di simpatizzanti del Partito Democratico già in aprile e anche adesso siano andati a Di Pietro, perché si sono sentiti autorizzati a farlo dalla persistenza dell'alleanza con il PD, cioè hanno potuto fare una scelta fra due che, essendo alleati, vengono considerati sostanzialmente una possibile scelta per un elettore di centrosinistra, e fra i due si vota in un momento in cui Berlusconi spadroneggia, in cui c'è al centrodestra al governo si fa un'opzione per il più radicale, quello che pare più alternativo, quello che la spara più grossa, quello che dice le cose più clamorose. Questo è comprensibile che succeda, è incomprensibile che il Partito Democratico agevoli questo fenomeno e che non dica chiaro e tondo che no, se si vuole costruire un'opposizione in grado poi di governare il paese un domani, è per il PD e non per altri che si deve votare, e casomai bisogna costruire una rete di alleanze con chi questa prospettiva di governo dell'Italia la può garantire. Io non credo che sia Di Pietro questa persona. Ad esempio l'UDC? Non lo so se sarà l'UDC, perché anche l'UDC a sua volta ha molti problemi, non è in uno stato di salute particolarmente florido, è molto insidiata dalla destra. Certo, questo sarebbe un ottimo motivo per non regalarla a Berlusconi, né come elettori né come partito in sé. Ma io vorrei che il PD più che altro investisse su se stesso, più che su alleati a destra, a sinistra o al centro, e cioè sulla scommessa originaria di essere un partito in grado di parlare con tutti gli italiani, anche con gli italiani che votano per il centrodestra, anche con gli italiani che sono delusi dal centrosinistra, che non l'hanno votato alle elezioni politiche, che non l'hanno votato in Abruzzo. Una scommessa un po' più orgogliosa su se medesimi che non andare a cercare degli appigli, degli appoggi improbabili in soggetti politici che poi alla fine si rivelano più competitivi. Questa dunque è l'intervista di Paolo Piacenza a Stefano Menichini, direttore di Europa. E PD nella bufera anche in Basilicata, notizia dell'ultima ora. L'amministratore delegato di Total Italia, Lionel Leva, è stato arrestato poco fa nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza per tangenti sugli appalti per estrazione di petrolio in Basilicata. Coinvolto anche il deputato del PD, Salvatore Margiotta, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. E restiamo a parlare di politica. L'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia delle leggi razziali. L'affondo del presidente della Camera Gianfranco Fini è arrivato questa mattina e ha puntato il dito anche contro la Chiesa. Sentiamo le parole di Fini. Ma l'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia. C'è da chiedersi perché la società italiana si sia adeguata nel suo insieme alla legislazione antiebraica e perché, salvo talune luminose eccezioni, non siano state registrate manifestazioni particolari di resistenza, nemmeno, e duole dirlo, da parte della Chiesa Cattolica. Altre notizie di oggi in primo piano, l'avete sentito dai nostri titoli, il maltempo che non dà tregua. Sentiamo allora qual è la situazione. Nuovo nubifragio nella notte su Roma, allagamenti nella zona di Trigoria e sulla via Laurentina, dove molti automobilisti sono stati bloccati da fango e acqua. Allagamenti anche in tutto il litorale laziale. A Ostia e Pomezia alcuni abitanti sono saliti sui tetti delle case e sono stati salvati dai vigili del fuoco con gli elicotteri. Sotto osservazione il Tevere e l'Aniene e i fiumi della zona, come spiega Luigi D'Angelo, dirigente della Protezione Civile. In particolare sono interessati i bacini del fiume Mignone, il Mata, il Fiora, l'Aniene, e quindi al momento le strutture operative, i vigili del fuoco e volontari di protezione civile stanno operando in particolare nella zona di Ostia, nella zona di Ostia Antica e poi lungo l'Aniene. In Piemonte, Val d'Aosta, resta alto il rischio valanghe. Oggi nel Cuneese le scuole sono rimaste chiuse per la neve. Apprensione anche a Torino per il Po, che ha superato i livelli di guardia. Resta il maltempo al sud, anche se nel Golfo di Napoli sono ripresi i collegamenti con le isole minori. Si viaggia comunque con difficoltà e ritardi per il forte vento di Scirocco. Monia Melis, GR24, Il Sole 24 Ore. Video virale, non so se questa espressione ti dice qualcosa, Anna. Devo dire, l'ho scoperta questa mattina, però è stato... È uno dei tanti termini che sono entrati a far parte della terminologia legata al mondo di internet. Sentiamo di che si tratta. Non hanno nulla a che vedere con il termine virus nel senso di infezione virtuale, nessun problema per la stabilità del nostro computer. Si chiamano virali perché sono divertenti, interessanti o innovativi e si diffondono come un contagio soprattutto grazie al social networking, con buona pace delle politiche antifannulloni sui luoghi di lavoro. Per questi video, in Italia ultimamente la mania è quella per le parodie. A te che vai dicendo in giro che sei nato prima e pur potendo scegliere te sei chiamato Roma. È chiaro che come tifoso io ti ringrazio, ma spiegami perché hai scelto il nome Lazio. Le più conosciute sono quelle a sfondo calcistico, come quelle di Galopeira, al secolo Riccardo Angelini, conduttore radiofonico e tifoso della Roma. Ma alcune parodie colpiscono direttamente i matti di Facebook. La mia foto su Facebook, quella di anni fa. Tra i temi più gettonati, ovviamente, anche la crisi. A novembre, sono finiti l'euro pure di dicembre. Qualcuno diventa famoso come Diego Bianchi, che nei suoi video Tolleranza Zoro ha prima commentato il Grande Fratello e poi la politica. Bertroni. No, non gli faccio più i video, no, ho smesso. Sì, io so che se che vanno, che fa, che li fanno tutti, sì. Devo essere il tuo Beppe Grillo. No, non sto a fare Beppe Grillo, era proprio. Nel senso, che te sei, per chi mi ha preso? Dalla blogosfera al successo in TV. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, le notizie di oggi extra large. Sventato attentato a Parigi, 5 pacchi esplosivi sono stati ritrovati in un grande magazzino, una rivendicazione arrivata all'agenzia France Presse da parte di un misterioso fronte rivoluzionario afghano. Biennio di recessione per l'Italia nel 2008 e 2009, la stima del Centro Studi di Confindustria, per la prima volta dal 94 calerà anche l'occupazione, saranno 600.000 i posti di lavoro persi, dicono gli industriali. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Chiederemo anche che venga convocato un tavolo proprio per la crisi a cui debbano partecipare tutte le forze sociali, maggioranza e opposizione, perché il paese deve essere forte, compatto e dare delle risposte concrete a imprese e cittadini. La crisi finanziaria globale è in una fase critica e per affrontarla servono nuove misure fiscali, monetarie e normative. Parole del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, intervenuto questa mattina a Hong Kong come presidente del Financial Stability Forum. Sono 40 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Pescara sulle presunte tangenti negli appalti pubblici che ha portato all'arresto del sindaco Luciano D'Alfonso, che è anche segretario regionale del PD. Tra gli indagati anche il patron di Air One Carlo Toto. Alla base dell'indagine appunti sequestrati all'ex braccio destro del sindaco, dove sono stati accertati versamenti di denaro di imprenditori con riscontri bancari. L'amministratore delegato di Total Italia è stato arrestato oggi nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza per tangenti sugli appalti per l'estrazione del petrolio in Basilicata, coinvolto anche il deputato del PD Salvatore Margiotta, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Maxi blitz antimafia questa mattina tra Sicilia e Toscana. Se con l'operazione del 2006 Cosa Nostra era in ginocchio, con questa le si è impedito di rialzarsi, dice il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. L'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia delle leggi razziali. C'è da chiedersi perché la società italiana si sia adeguata, e anche la Chiesa sapeva. A 70 anni dalla proclamazione in Italia delle leggi anti-ebraiche e razziste, arriva il duro affondo questa mattina del presidente della Camera Gianfranco Fini. Sentiamo. L'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia. C'è da chiedersi perché la società italiana si sia adeguata, nel suo insieme, alla legislazione anti-ebraica e perché, salvo talune luminose eccezioni, non siano state registrate manifestazioni particolari di resistenza, nemmeno, e duole dirlo, da parte della Chiesa Cattolica. La pioggia non accenna a risparmiare Roma e Lazio, situazione più critica ad Ostia e Pomezia, con i vigili del fuoco intervenuti per aiutare persone che avevano trovato scampo sui tetti delle abitazioni. Tevere e Aniene sorvegliati speciali e si stanno rimuovendo i barconi ancora alla deriva. E come avete sentito dai titoli, maxi blitz antimafia questa mattina da parte dei carabinieri tra Sicilia e Toscana. 99 i fermati, in manette sono finiti capimafia, reggenti di mandamenti e gregari che farebbero parte delle famiglie mafiose coinvolte da alcuni boss palermitani in un progetto criminale che, secondo quanto dicono gli inquirenti, aveva come obiettivo quello di rifondare Cosa Nostra addirittura. Abbiamo impedito alla mafia di rialzarsi, questa è le parole del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, e Maria Luisa Pezzali l'ha intervistato. Se con l'operazione Gota del giugno 2006 Cosa Nostra fu messa in ginocchio, con questa operazione Perseo le si è impedito di rialzarsi, recidendo tutte le teste, così come ha fatto il mitico eroe Perseo, tutte le teste strategicamente pensanti di una nuova struttura di comando che avrebbe dovuto deliberare, come già avvenuto in passato, su cose gravi, così dicono le intercettazioni. Ecco, si parla addirittura di una nuova campagna di attacchi come quella del 93. Certamente la mente allarmisticamente corre alle ultime stragi del 92 e del 93, all'attacco alle istituzioni, al patrimonio artistico. Potrebbero anche essere decisioni interne a Cosa Nostra per evitare gli scontri, le ipotesi sono tante. Secondo gli inquirenti volevano ricostituire la commissione provinciale, l'organismo di comando storico di Cosa Nostra. Cercavano di riorganizzare, cioè sono stati fermati proprio quando ancora, diciamo, il tentativo non era riuscito, perché tutti i componenti anche della vecchia commissione erano stati arrestati. Lo Piccolo, Rotolo e Provenzano erano gli ultimi epigoni della vecchia commissione. Adesso sono tutti in carcere, però rimangono in carica, quindi il problema era quello di poter far sorgere un nuovo organismo operativo nonostante la stasi determinata dal carcere, dal 41 bis, da cui è difficile comunicare. Io l'avevo già preannunciato quando sull'onda dei successi si parlava di una Cosa Nostra annientata. Il passato ci insegna che piano piano, nel silenzio, sotto traccia, cerca sempre di ricostituirsi, di riorganizzarsi. Dalle indagini emerge il ruolo di primo piano del superlatitante Matteo Messina Denaro, una conferma del fatto che lui è il nuovo capo di Cosa Nostra, è così? Ma io non sarei così assoluto, nel senso che Matteo Messina Denaro ha un ruolo di consultazione, potrebbe anche avere un ruolo iniziale di impulso alla riorganizzazione, la regia all'interno e mentre si facevano le consultazioni non è risultata. Certamente c'erano i collegamenti fra molti capi mandamento palermitani e Matteo Messina Denaro. Emerge infine anche una strategia politica per appoggiare la scelta dei candidati vicini ai boss. Diciamo che nei loro discorsi si sentiva, appunto, come sempre, che è importante la politica, perché avere un politico che asseconda i desideri, i fini dell'organizzazione significa partecipare al potere, che poi è qualcosa che è tra i fini anche dell'organizzazione Cosa Nostra, non solo il profitto ma anche il potere. Questo è il procuratore Grasso, e sull'operazione denominata Perseo sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. La mafia voleva tornare al 1992-1993, agli anni degli omicidi eccellenti e delle stragi contro vittime innocenti. Non intendeva più prolungare il tempo delle trattative sotterranee con la politica, delle pressioni con le istituzioni, delle minacce agli imprenditori che si rifiutano di pagare il pizzo. Secondo i boss, Cosa Nostra doveva essere rifondata attraverso un bagno di sangue. E analizzando come si doveva trasformare la mafia, si comprendono oggi le finalità della nuova strategia criminale. Doveva essere costituita una commissione provinciale, un organismo ristretto ai soli clan palermitani, in grado di decidere azioni eclatanti e omicidi. Un contributo militare sarebbe stato fornito dal latitante trapanese Matteo Messina Denaro. In sostanza, avrebbe prevalso la linea stragista di Totorina e messa da parte in modo definitivo quella più moderata di Bernardo Provenzano, più inclina al controllo del sistema degli appalti attraverso una fitta rete di uomini inseriti nell'organizzazione con la fedina penale pulita, sparsi sul territorio. Le stragi e gli omicidi per piegare lo Stato alla pressione criminale. Una strategia terroristica che sembra essere stata sconfitta dagli arresti di oggi. Aggiornamenti arrivano da Parigi, ve l'abbiamo raccontato, 5 pacchi bomba sono state trovate in un grande magazzino della capitale francese, atto rivendicato con una telefonata da un fronte rivoluzionario afghano. Ha chiesto si apprende ora il ritiro delle truppe francesi dall'Afghanistan entro il febbraio del 2009, nella rivendicazione si minaccia, nel caso di mancato ritiro, di passare nuovamente all'azione, stavolta però senza avvertire. Contro il terrorismo è stato il commento poco fa del presidente francese Nicolas Sarkozy: bisogna essere sempre vigili e agire con fermezza, non ci sono alternative. Continueremo naturalmente ad aggiornarvi nel corso del giornale. Ed ora i nostri consigli per le vostre letture, che quest'oggi ci portano in Turchia. Salutiamo, diamo il buongiorno a Marta Ottaviani. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Corrispondente per l'agenzia PICOM a Istanbul, ma collaboratrice di varie testate, tra cui naturalmente anche la nostra, Radio 24. Marta, un libro dal titolo Cose da Turchi, ma esistono ancora le cose da Turchi? Cioè immagino che alludi a un certo stile di vita. Che cos'è questo, un ritratto della Turchia? Le cose da Turchi esistono e diventano più attuali che mai. Nel mio libro ci sono, se vogliamo ben vedere, due tipi diversi di cose da Turchi. Nella prima parte, che è più autobiografica, c'è la mia esperienza come giovane trentenne in un collegio statale turco, dove ero l'unica europea alla fine su oltre 3.000 locali. Nella seconda parte si trasforma più in un saggio ed è più un'analisi ponderata e serena di quelle che sono le problematiche ancora irrisolte del paese, quali siano anche gli errori dell'Europa e della gente comune, no? Se vogliamo, quando si pensa al capitolo Turchia. Siamo spesso molto e parliamo preparati. Proprio di questo, allora, perché tutti si chiedono se la Turchia sia pronta per entrare in Europa. Da lì come si vede la cosa? Ma il mio libro si conclude con una volontà d'ottimismo, nel senso che per quanto riguarda la mia opinione personale l'ingresso della Turchia in Europa è necessario. Nel contempo però bisogna tenere d'occhio alcuni meccanismi che sono appunto questa presunta islamizzazione strisciante del paese, contro la quale però anche autorevoli giornalisti sembrano appunto, sulla quale però anche autorevoli giornalisti sembrano pensarla diversamente, e questa rivalsa ultranazionalista che ogni tanto viene fuori appunto con i fatti di sangue che purtroppo conosciamo fin troppo bene. Dall'altra parte il problema curdo, questa minoranza che comunque non vede ancora riconosciuti i suoi diritti nonostante l'impegno anche dell'attuale governo, e dall'altra parte anche un rapporto magari più sereno della Turchia con la sua storia, soprattutto per quanto riguarda i fatti relativi al genocidio armeno e del 1915 in genere. Insomma, per tutto il resto bisogna comprare il libro Cose da Turchi di Marta Ottaviani. Grazie per essere stata con noi. 13:35 minuti, extra large, le notizie di oggi. Sventato un attentato a Parigi, 5 pacchi esplosivi sono stati trovati in un grande magazzino. Una rivendicazione è arrivata all'agenzia France Press da parte di un misterioso fronte rivoluzionario afghano che chiede il ritiro delle truppe francesi dall'Afghanistan. Biennio di recessione per l'Italia. Per la prima volta dal dopoguerra il nostro paese vivrà nel 2008 e 2009 due anni consecutivi di calo dell'economia, dice Confindustria. Per la prima volta dal 94 calerà anche l'occupazione, 600.000 i posti di lavoro che saranno persi. A 70 anni dalla proclamazione in Italia delle leggi anti-ebraiche e razziste, il duro affondo del presidente della Camera Gianfranco Fini. L'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia delle leggi razziali. C'è da chiedersi perché la società italiana si sia adeguata, e anche la Chiesa sapeva, ha detto Fini. Sentiamo. Ma l'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia. C'è da chiedersi perché la società italiana si sia adeguata nel suo insieme alla legislazione anti-ebraica, e perché, salvo talune luminose eccezioni, non siano state registrate manifestazioni particolari di resistenza, nemmeno, e duole dirlo, da parte della Chiesa Cattolica. Maxi blitz antimafia questa mattina tra Sicilia e Toscana, 99 fermati, manette sono finiti, capi mafia che dicono gli inquirenti volevano rifondare Cosa Nostra e costituire una nuova cupola. Il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Se con l'operazione Gota del giugno 2006 Cosa Nostra fu messa in ginocchio, con questa operazione Perseo le si è impedito di rialzarsi, recidendo tutte le teste di una nuova struttura di comando che avrebbe dovuto deliberare su cose gravi. La mente allarmisticamente corre alle ultime stragi del 92 e del 93. Arrestato per tangenti l'amministratore delegato di Total Italia, Lionel Liva, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza sull'estrazione del petrolio in Basilicata. Coinvolto anche il deputato del PD, Salvatore Margiotta, agli arresti domiciliari. E sono 40 gli indagati dalla Procura di Pescara per presunte tangenti negli appalti pubblici che ha portato ieri sera all'arresto del sindaco Luciano D'Alfonso, che è anche segretario regionale del PD. Tra gli indagati anche il patron di Air One, Carlo Toto. La pioggia non accenna a risparmiare Roma e il Lazio. La situazione più critica ad Ostia e Pomezia, con i vigili del fuoco intervenuti per aiutare persone che avevano trovato rifugio sui tetti delle abitazioni. Esondato il fiume Almone, allagata una parte dell'Appia Antica. Sentiamo Luigi D'Angelo, dirigente della Protezione Civile. Il livello idraulico del Tevere è ben al di sotto di quelli che sono stati i livelli massimi toccati appunto tra la notte di sabato e domenica, quando è passato il colmo di piena. I livelli della Niene permangono alti e quindi va attenzionata tutta quella zona. Sono stati attivati oltre 20 presidi proprio lungo l'asta del fiume Niene. Incidente questa mattina durante un'esercitazione militare. Un soldato è morto durante un addestramento all'aeroporto di Rimini. L'automezzo su cui era è stato urtato dalle pale di un elicottero. E lo abbiamo detto più volte nei titoli del GR Extra Large, per la prima volta dal dopoguerra l'Italia vivrà nel 2008-2009 un biennio di recessione. È questa la stima del Centro Studi di Confindustria, secondo il quale il PIL del nostro paese diminuirà dello 0,5% quest'anno e di una quota ancora maggiore l'anno prossimo, dell'1,3%. Ed è pesante il bilancio, soprattutto per l'occupazione. Paola Cavadi, buongiorno, eri oggi alla presentazione del rapporto. Sì, buongiorno a tutti. In effetti, come avete detto, le conseguenze della crisi si fanno sentire anche in Italia. A dirlo proprio è il Centro Studi di Confindustria, che dipinge un quadro piuttosto fosco di quello che sarà. Due anni di recessione per la prima volta dal dopoguerra, lo avete detto. Il PIL calerà di mezzo punto nel 2008, mentre nel 2009 toccherà quota meno 1,3%. Per la ripresa dovremo attendere il 2010, quando il PIL riprenderà a salire dello 0,7%. Sempre a condizione però che aumenti la fiducia di imprese e di famiglie. Preoccupa il dato sull'occupazione in calo dell'1,4% nel 2009, per la prima volta, come avete ricordato, dal 1994. Secondo Confindustria saranno 600.000 i posti di lavoro che si perderanno tra il secondo trimestre del 2008 e il secondo trimestre del 2009. Per far fronte alla situazione, il numero uno degli industriali, Emma Marcegaglia, ha lanciato un appello all'unità. Sentiamola. Pensiamo che in un momento di questa gravità serva unità tra maggioranza e opposizione, serva unità tra le forze sociali, cioè in un momento come questo non devono prevalere le contrapposizioni, i conflitti, deve invece esserci unità e noi stiamo cercando di lavorare in questo senso. Noi chiederemo anche che venga convocato un tavolo proprio per la crisi a cui debbano partecipare tutte le forze sociali, maggioranza e opposizione, perché il Paese deve essere forte, compatto e dare delle risposte concrete a imprese e cittadini. E proprio di risposte concrete, secondo Marcegaglia, hanno bisogno le imprese, che in questo momento soffrono soprattutto della stretta sul credito bancario. Bisogna in sostanza, secondo il numero uno di Confindustria, che il governo dia attuazione al piano di sostegno alle banche, rimasto fino ad oggi lettera morta. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie a Paola Cavadi. Ora veniamo però agli altri settori che sono in crisi. Settori in crisi per una crisi che sempre più si allarga a quella che viene chiamata l'economia reale. Abbiamo parlato ieri dell'auto e della cassa integrazione della Fiat. Oggi ci occupiamo di un altro comparto, il turismo, anche perché siamo davvero vicini a quella che è la prova generale, davvero. Oggi Confturismo, viste le cattive previsioni per le vacanze di Natale, ha lanciato alcune proposte. Il presidente di Confturismo, Bernabò Bocca, al microfono di Paola Nania. Ma io credo che noi ci troviamo alla vigilia di una fase di recessione per l'economia italiana. Sicuramente il turismo subirà molto di questa fase di recessione e di un calo dei consumi interni. Credo che bisogna prevenire il male invece di curarlo dopo. La proposta che noi facciamo è con un'indagine scientifica che dimostra che qualora fosse abbassata l'IVA sul turismo, cioè portato l'aliquota IVA sul turismo italiano allo stesso livello di Francia e Spagna, questo significherebbe, è vero, da un lato minori entrate per le casse dello Stato, ma dall'altra parte renderebbe più competitivo il sistema turistico italiano, rilanciando gli investimenti, creando maggiori posti di lavoro, e quindi alla fine le minori entrate sarebbero compensate da maggiori entrate dovute allo sviluppo del settore. Buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno. Oggi dove ci porti? Ci porti innanzitutto, credo, in Germania, restiamo a tema però, no? Sì, la Süddeutsche Zeitung, che è uno dei principali quotidiani del paese, ha in prima pagina questo titolo, che le società quotate al DAX, le prime 30, poi si spiega meglio nell'articolo, devono cercare di limitare i licenziamenti. Questa è una misura chiesta espressamente dal cancelliere Angela Merkel, che incontrerà i vertici di queste aziende e tra l'altro all'inizio di gennaio proporrà un secondo piano di rilancio per l'economia, a condizione però, che naturalmente comprenderà anche aiuti alle imprese, sgravi fiscali eccetera, a condizione però che le imprese si impegnino a non licenziare, proponendo dei piani alternativi che includono riduzioni dello stipendio, riduzioni dei bonus, riduzione dell'orario di lavoro, quindi alla fine molti dipendenti avranno meno soldi alla fine del mese, però manterranno il posto di lavoro. È una misura che credo su un paese come la Germania, dove sono molto disciplinati, credo abbia qualche possibilità di passare, di c'è questa idea di sacrificio collettivo che però dà un vantaggio a medio-lungo termine. Potrebbe essere un'indicazione anche per l'Italia, chissà. Giulia, questa mattina il presidente francese Sarkozy è alle prese con tutt'altro. Ricordiamo ancora 5 pacchi bomba trovati in un supermercato parigino. Fermezza, dice Sarkozy, però sui giornali per lui c'è tutt'altra questione. Sì, forse è così, ci sono queste onde globali che investono tutta l'Europa. In questo caso potrebbe essere l'influenza di quello che è successo in Grecia, o la paura di che quello che è successo in Grecia si sposti anche alla Francia. Sarkozy, titola Le Figaro in prima pagina, obbliga Darcot, che è il suo ministro dell'istruzione, a far slittare la riforma dei licei. È una riforma molto controversa, ma è anche una riforma che Sarkozy aveva annunciato in campagna elettorale e che quindi si è impegnato a fare, solo che in questo momento teme, con tutto quello che già sta succedendo e con altre tensioni anche interrazziali in Francia, che sia un'ulteriore miccia che possa così scatenare una protesta anche solo studentesca, ma poi sono proteste difficilissime da controllare e Sarkozy teme che gli sfugga di mano e quindi stoppa la riforma per ora. 13:45 minuti, le notizie di oggi. Sventato attentato a Parigi, 5 pacchi esplosivi ritrovati e disinnescati in un grande magazzino al centro della capitale francese. Una rivendicazione arrivata all'agenzia France Press da parte di un misterioso fronte rivoluzionario afghano che chiede il ritiro delle truppe francesi dall'Afghanistan. Biennio di recessione per l'Italia, per la prima volta dal dopoguerra il nostro paese vivrà 2008 e 2009 due anni consecutivi di calo dell'economia, è la stima del Centro Studi di Confindustria. Saranno persi anche 600.000 posti di lavoro, dicono gli industriali. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Chiederemo anche che venga convocato un tavolo proprio per la crisi a cui debbano partecipare tutte le forze sociali, maggioranza e opposizione, perché il paese deve essere forte, compatto e dare delle risposte concrete a imprese e cittadini. Arrestato per tangenti l'amministratore delegato di Total Italia, Lionel Leva, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza sugli appalti per l'estrazione del petrolio in Basilicata. Coinvolto anche il deputato del Partito Democratico, Salvatore Margiotta, agli arresti domiciliari. E sono 40 complessivamente gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara, invece, sulle presunte tangenti negli appalti pubblici, che ha portato ieri sera all'arresto del sindaco Luciano D'Alfonso, che è anche segretario regionale del PD. Tra gli indagati, il patron di Airone, Carlo Toto. Maxi operazione antimafia questa mattina tra Sicilia e Toscana. 99 i fermati. Se con il maxi blitz del 2006 Cosa Nostra era in ginocchio, con questa operazione le si è impedito di rialzarsi, ha commentato il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Se con l'operazione Gota del giugno 2006 Cosa Nostra fu messa in ginocchio, con questa operazione Perseo le si è impedito di rialzarsi, recidendo tutte le teste di una nuova struttura di comando che avrebbe dovuto deliberare su cose gravi. La mente allarmisticamente corre alle ultime stragi del 92 e del 93. Esondato a Roma il fiume Almone, allagata l'Appia Antica, la pioggia non accenna a fermarsi. Aosta e Pomezia e Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare persone che avevano trovato scampo sui tetti delle abitazioni. Luigi D'Angelo, dirigente della Protezione Civile. Il livello idraulico del Tevere è ben al di sotto di quelli che sono stati i livelli massimi toccati appunto tra la notte di sabato e domenica, quando è passato il colmo di piena. I livelli dell'Aniene permangono alti e quindi va attenzionata tutta quella zona. Sono stati attivati oltre 20 presidi proprio lungo l'asta del fiume Aniene. Queste dunque le principali notizie di oggi. Adesso però vogliamo riprendere un tema che fa discutere, perché ogni volta naturalmente che si affronta questo tema, Anna, quello le discussioni si aprono. Parliamo dei livelli di alcol nel sangue dei guidatori, con tutti gli incidenti e la cronaca che ci ripropone appunto gravi incidenti in questo senso. Adesso c'è una nuova proposta. La proposta è quella di abbassare nuovamente il tasso alcolemico per chi si mette alla guida. Ma può servire davvero questo per ridurre gli incidenti? Noi vogliamo provare a capirlo. Chi guida non beve, molto semplice, una norma snella, chiara. Cioè non si deve più bere neanche un bicchiere di vino? Esatto, neanche una bottiglietta di birra. La regola è semplice, ce la spiega il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Mario Valducci, un esponente della Casa delle Libertà che porta avanti un provvedimento già elaborato dall'allora centrosinistra al governo. Ed era un provvedimento già votato alla Camera, poi al Senato, e che poi doveva essere votato in terza lettura alla Camera per diventare legge. Quindi è una proposta che vi trova tutti d'accordo, cioè un consenso è trasversale. Esatto. Dunque il fatto è semplice, chi guida non beve, altrimenti cosa succede? Prima volta una sospensione che dovrà essere di alcuni mesi, ma per arrivare una terza volta alla sospensione a vita della patente. Perché le regole vengano rispettate è necessario, soprattutto in Italia, che vi sia la garanzia di controlli. Solo che nel caso nostro mancano i soldi per farli. E allora Valducci, il presidente della Commissione Trasporti, si immagina di risolvere la cosa così. Noi tutti i cittadini paghiamo tante centinaia di euro per le multe, sosta vietata, autovelox più o meno regolari, quant'altro. La proposta che vogliamo fare ai comuni è di utilizzare una parte di questi fondi. Oggi c'è la legge che dice che il 50% delle nostre multe dovrebbero essere usate dai comuni per azioni a favore della sicurezza stradale. In realtà sappiamo benissimo che non vengono utilizzate questi soldi per questo scopo, ma solo per chiudere positivamente i bilanci dei comuni. E quindi questo sicuramente noi vogliamo toglierla come pratica e far sì che il 20%, se non il 50%, venga destinato a maggiori controlli e una nuova segnaletica stradale per la sicurezza nel comune dove uno ha pagato la multa. In Italia tra il 30 e il 50% degli incidenti mortali su strada è legato all'uso di alcol, il doppio di Gran Bretagna, Olanda e Svezia, ma in tutti i paesi europei esistono piani economici ben definiti per la sicurezza stradale, come spiega Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione amici della polizia stradale, al microfono di Marco Lignana. Negli altri paesi europei si fanno investimenti pari a decine di euro per ogni patentato, ogni conducente. In Italia ormai siamo quasi a zero, nel senso che gli ultimi finanziamenti sono stati dirottati per altre cause e per gli anni a venire il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, se non sono mal informato, è stato svuotato della parte di copertura economica. I controlli su strada, spiega Biserni, sono in aumento, ma rispetto al resto del vecchio continente l'Italia è ancora molto indietro e così una delle soluzioni proposte dall'associazione torna a sollecitare i comuni. Intanto cominciamo col precisare che nel 2006 si faceva un 250.000 controlli con gli etilometri, nel 2007 siamo arrivati a 800.000 e guarda caso i morti sulla strada sono diminuiti di 538 unità. Nel 2008 arriveremo a 1.5 milioni. Mi rendo conto che siamo lontani dai 4-5 milioni della Francia e 3.5 milioni della Spagna, però già si è imboccato un percorso virtuoso. Noi come associazione, per esempio, abbiamo sottolineato proprio come ASAPS ai nostri responsabili politici che sarebbe opportuno dare una sollecitazione anche ai comuni, fare sì che i comuni con più di 5.000 abitanti e 5 agenti abbiano l'obbligo di dotarsi di un etilometro, oltre che in molti casi di autovelox o telerase, di un etilometro che deve essere messo a disposizione di tutte le forze di polizia in transito. Cristina Carpinelli, GR24, il Sole 24 Ore. E speriamo di aver fatto un po' di chiarezza. Un altro tema, vi abbiamo raccontato ieri il nostro viaggio in auto e in treno da Milano a Bologna, ma a 3 giorni dall'inaugurazione dell'alta velocità la regione Lombardia ora minaccia di fermare tutto. Il motivo sono i troppi ritardi che accumulerebbero i convogli dei pendolari rallentati per lasciare spazio alla freccia rossa. O così almeno è successo ieri, quando appunto abbiamo ripercorso il tragitto sia in auto che in treno. Appunto, ieri è stato un lunedì nero per i pendolari, mentre la nostra Roberta Pellegatta per l'appunto si trovava a 300 km all'ora in diretta con noi verso Bologna. Allora, Roberta Pellegatta, buongiorno. Oggi tu sei andata a sentire quali sono le ragioni del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, che appunto ha lamentato questa trascuratezza per quanto riguarda i pendolari. Sì, in realtà il presidente della regione Lombardia Formigoni ha colto l'occasione per tornare su quanto detto già ieri su Tave Pendolari nella giornata del Brindisi con i giornalisti, quindi non era, come dire, una circostanza ufficiale, però ha parlato di questa questione e oggi ha precisato il governatore i problemi, i ritardi, i sovraffollamenti sui treni pendolari sono stati minori rispetto a ieri, che del resto era il primo giorno del nuovo orario invernale di Trenitalia, che comprendeva quindi l'alta velocità, quindi oggi sono stati inferiori i disagi, ma ha sottolineato Formigoni, la regione continuerà a premere su Trenitalia e su RFI perché rispettino gli accordi presi, cioè che la TAV non provochi soppressione e rallentamenti di treni regionali, non causi disagi a chi il treno lo prende tutti i giorni per andare a lavorare. Nel caso gli accordi non siano rispettati, Formigoni oggi ha ribadito, siamo pronti ad azioni clamorose, come ad esempio sospendere l'alta velocità. E allora vedremo cosa succederà. Nel frattempo, ovviamente, rassicuriamo, l'alta velocità va avanti oggi, certo, i treni sono regolarmente al loro posto. Grazie a Roberta Pellegatta. E adesso? E adesso una notizia davvero che ha curiosito tutti. La nostra finestra sul mondo arabo. Chi non ha guardato le immagini della scarpa lanciata contro Bush durante la conferenza stampa a Baghdad? Bene, la nostra finestra sul mondo arabo oggi ci racconta tutti in retroscena. 10 milioni di dollari, è questa la cifra che un ricco saudita è disposto a pagare pur di avere una delle scarpe che sono state lanciate contro il presidente degli Stati Uniti, George Bush. Lo riferisce la TV Al-Arabiya, che ha intervistato il diretto interessato. La scarpa vale più di tutti i miei beni e la lascerò in eredità ai figli come simbolo della libertà, ha detto lo sceicco, che spiega la sua offerta con l'impagabile soddisfazione di vedere restituita una parte della dignità araba calpestata dall'attuale amministrazione USA. Nel frattempo la stessa TV svela che l'autore, prima di compiere il clamoroso gesto, avrebbe scritto ad un suo amico di progettare un'azione che restituirà l'onore alla mia gente e mi farà entrare nella storia. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere, il riepilogo delle notizie di oggi. Sventato un attentato a Parigi, 5 pacchi di esplosivi sono stati ritrovati e disinnescati in un grande magazzino della capitale. Un misterioso fronte rivoluzionario afghano ha rivendicato l'attentato sventato e ha chiesto il ritiro delle truppe francesi dall'Afghanistan. 2 anni di recessione per l'Italia e la ripresa solo nel 2010. Sono fosche le previsioni del Centro Studi Confindustria, che lancia anche un allarme per l'occupazione. Entro giugno si perderanno 600.000 posti di lavoro. Il governatore di Banca Italia Draghi chiede alla comunità internazionale nuove misure anticrisi. Arrestato per tangenti l'amministratore delegato di Total Italia, Lionel Leva, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza sugli appalti per l'estrazione del petrolio in Basilicata. È coinvolto anche il deputato del PD Salvatore Margiotta, finito agli arresti domiciliari. Colpo duro al PD anche in Abruzzo. Brusco calo nelle elezioni regionali che hanno visto la vittoria del candidato del Popolo della Libertà Chiodi. E nella notte in manette per tangenti il sindaco di Pescara, coinvolto anche l'imprenditore Carlo Toto. A 70 anni dalle leggi anti-ebraiche in Italia, l'affondo del presidente della Camera Gianfranco Fini, l'ideologia fascista non spiega da sola l'infamia delle leggi razziali, c'è da chiedersi perché la società italiana si sia adeguata e anche la Chiesa lo sapeva. Volevano ricostruire la storica cupola della mafia, ma sono finiti in manette. 99 i fermi, un blitz importante contro la mafia, quello messo a segno nelle prime ore di oggi. Abbiamo impedito a Cosa Nostra di rialzarsi, dice il procuratore nazionale Grasso. La pioggia non accenna a risparmiare Roma e Lazio. La situazione più critica ad Ostia, a Pomezia, con persone che hanno trovato scampo sui tetti delle abitazioni. Tevere e Aniene sorvegliati speciali. Esondato il fiume Almone, allagata una parte dell'Appia Antica. Ed è tutto per questa edizione del GR24. In studio Alessio Maurizio, Anna Migliorati, in il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. L'appuntamento è per domani dalle 13, extra large, @radio24.it, e come sempre se volete scriverci. A domani. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.